per definire una vita degna, una vita bella da essere vissuta. Accennavi alla misurazione, che è un problema, nel senso che l'etica, la felicità sono concetti difficili da misurare. In economia la misurazione serve, del resto. Assolutamente. L'Italia è sempre famosa per essere in fondo a tutte le classifiche, diciamo così, degli indicatori macroeconomici. Invece su alcuni temi si trova all'avanguardia, diciamo così. In modo particolare rispetto a questo tema, l'Istat ha lanciato nel 2013 un progetto che è il BES, Benessere Equo e Sostenibile, che sostanzialmente ha un obiettivo molto ambizioso. L'allora presidente Istat, Enrico Giovannini, parlava di una nuova costituzione statistica, quindi l'esigenza di aggiornare la contabilità nazionale proprio alla luce di questa multidimensionalità della qualità della vita. Quindi noi tradizionalmente apriamo un giornale e leggiamo che la ricetta contro la recessione è un PIL più alto. Il PIL che cos'è? Il reddito di una nazione. Bisogna andare al di là, cioè bisogna sicuramente considerare il reddito come un elemento fondamentale, come un mattone fondamentale della qualità della vita, ma non è il solo. E quindi tenere aggiornato il sistema di contabilità nazionale anche rispetto alle altre dimensioni, che possono essere la salute, l'istruzione, il lavoro, la soddisfazione nella vita percepita soggettivamente, la sicurezza, la bellezza del patrimonio, attraverso tutta una serie di indicatori che non vengono più aggregati in un solo numero, ma danno una visione complessa di una realtà complessa, per l'appunto. C'è anche una convergenza di pensiero in questo momento, tanti libri sono usciti su queste tematiche, ne cito uno su tutti, Jeremy Rifkin, La società a costo marginale zero, in cui delinea un nuovo modello economico, soprattutto quello che mi interessa della sua analisi in questo momento è il fatto che lui dica che nella società del futuro il capitale sociale avrà un ruolo complementare e sicuramente superiore a quello di ora rispetto al capitale finanziario. Ecco, che cosa ne pensi? Diciamo che anche lui si inserisce in una letteratura che è ancora più anziana, nel senso che sono perfettamente d'accordo nel dire che il capitale sociale e i beni relazionali, e adesso dico cosa si intende per beni relazionali, che tradizionalmente sono non considerati quando si monetizza la qualità della vita, invece hanno un impatto fondamentale nelle nostre vite. Faccio un esempio: quando in ufficio si utilizza la chiavetta del caffè, molto spesso si va a prendere il caffè con i propri colleghi e molto spesso si utilizza una chiavetta, chi un giorno, chi un altro, si offre il caffè di giorno in giorno. È probabile che alla fine del mese si finisca con lo spendere gli stessi soldi che si sarebbero spesi se ognuno ogni giorno usasse la propria chiavetta. Cioè la sharing economy, l'idea della condivisione, nasce proprio dall'idea che nella stessa relazione c'è un elemento fondamentale, c'è un bene vero e proprio, cioè nel momento in cui si crea uno scambio, c'è uno scambio che a volte si concretizza nello scambio di un bene, ma altrettanto in modo importante si concretizza anche con uno scambio di relazioni. Questo appunto per esempio si vede bene con i trasporti, con l'emergere di servizi come BlaBlaCar, oppure del cibo, i gruppi di acquisto solidale. C'è sicuramente l'esigenza di monitorare la qualità del cibo e del proprio regime alimentare, ma allo stesso tempo anche di soddisfare quell'esigenza, quella domanda di relazione che per l'appunto fino ad oggi è un po' rimasta in sottotraccia con i modelli di consumo che si erano affermati. Quindi sicuramente da questo punto di vista le relazioni e i beni relazionali diventeranno un elemento fondamentale, sono già un elemento fondamentale della qualità della vita delle persone e creano valore. Possiamo dire che in qualche modo sono maturi i tempi per cui l'etica possa essere intesa come motore di innovazione, soprattutto come valore competitivo per le aziende, ma anche per gli individui? Beh, speriamo, nel senso che in teoria l'etica dovrebbe essere proprio connaturata alla creazione di valore, però diciamo che sicuramente è un tema che è nell'agenda anche nelle grandi aziende, si pensa all'importanza che sempre più hanno parole come corporate social responsibility, sostenibilità nei piani di sviluppo aziendale, per cui senz'altro anche in funzione di questa profonda trasformazione che sta subendo il sistema economico negli anni, sia arrivato il momento di tenere conto del valore che è associato proprio alla responsabilità e all'etica della responsabilità. Quindi sì, diciamo che i tempi sono